sogno la neve di freddi orizzonti, nel sogno mi trovo nel regno di Prara. Ivi la vita è assai dura ed avara, avvala, nel regno dei gelidi monti. Sogno velante s'oceani e mari, nel sogno mi trovo nel regno di Prara. Scelgo la vita assai ricca ed ignara, di mercanti, pirati, schiavisti e corsari. Destati adesso, io ti racconterò di mostri e battaglie, io ti narrerò. Destati adesso, io ti sussurrerò di intrighi di corte, di amori e tesori. Sogno il fumo e il rumor di miniera, nel sogno mi trovo nel regno di Prara. Questa vita nessun ti prepara, ma Dorsten il lavoro produce severa. Sogno una vita che Rocca concede, nel sogno mi trovo nel regno di Prara. Quivi la luna illumina chiara ciò che ti sostiene, e di certo la fede. Destati adesso, io ti racconterò di incanti e rituali, io ti narrerò. Destati adesso, io ti sussurrerò di gilde, omicidi, torti ed onori. Sogno a Luren, udi armature, nel sogno mi trovo nel regno di Prara. Questa vita unisce e separa corti, guerrieri, dame, avventure. Destati adesso, io ti racconterò di incanti e rituali, io ti narrerò. Destati adesso, io ti sussurrerò di gilde, omicidi, torti e dono. Destati adesso, io ti racconterò di mostri e battaglie, io ti narrerò. Destati adesso, io ti sussurrerò di intrighi di corte, di amori e tesori. Di intrighi di corte, di amori e tesori. Di intrighi di corte, di amori e tesori.